cosa vuoi fare? Allora, quello che posso dire ai giovani, perché oramai sono vecchio, ho 40 anni, però la realtà dei fatti è che tutti cadano, tutti risalgano. Nato a Montevideo 3971. Lei tuttora è tesserato per la Juventus, ma qui si tratta degli anni tra il 94 e il 98, di quello ci occupiamo. Se in quell'epoca lei ricorda se e che cosa assumesse come prodotti, come integratori, farmaci, qualsiasi tipo di prodotto venisse assunto in quell'epoca. Ce lo ricordo. Mi dica allora, che cosa assumeva? Integratori. Lei assumeva antinfiammatori, per esempio? Sì, ho preso. Ricorda quali? Ho preso Voltaren. Poi? Anche qualcun altro. Lei ha dichiarato, per esempio, Misofenac, leggo qui. I nomi non li ricordo. Lei lo ha anche dichiarato. Se l'ho dichiarato? L'ha dichiarato, credo, nel corso di un... quando è stato sorteggiato per l'antidoping, di averla assunto. Non ricordo. Se l'ha dichiarato, è così, ma dico lei, non lo ricordo. No. Ma sa che cosa sei, almeno? Non lo sa. Montero, lo sa o non lo sa? Se no facciamo notte. Lo sa o non lo sa? No, mi sono bloccato adesso. Non me lo sei bloccato. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión, pa' gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Porque el mundo es una bola que se viva flor de pie. Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Senti, ma tu hai dei vizi, scrive il giornale, sei una persona che si dice vive da bohemien. Ma io ho dei vizi. Tu li hai? Sì, sì, io come tutti quanti, come un caporedattore, come un industriale, come un politico, come tanti giocatori di calcio. Però risulta che è l'unico a avere visto Beatles e Maradona. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentad la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Recién eso, ¿verdad? ¡Oh! Fue deseo de Dios sobrevivir a la humilde. Miren el video, la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Poco que debutó Maradona, Maradona, la 12 fue quien corrió Maradona, Maradona. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó Maradona, Maradona. Nació la mano de Dios Maradona, Maradona. Sembró alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo. En los hombros, por ser el mejor, por no venderse jamás. Al poder enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó a una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer, que lo hizo adicto al deseo de usarla otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que hoy día el Diego está por ganar. Que debutó Maradona, Maradona. La 12 fue quien corrió Maradona, Maradona. Su sueño tiene una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó Maradona, Maradona. Nació la mano de Dios Maradona, Maradona. Fue alegría en el pueblo, lleno de gloria este sueño. Tu sapevi che la efedrina era una sostanza proibita nel calcio, lo sapevano pure loro, sì. Quando ti hanno permesso di rientrare in 60 giorni perdendo 20 kg. Sì, ma Gianni, io credo che se io ho commesso un errore da un metro, loro non possono dare una colpa di 30.000 km. Siamo chiari qua. Sì, la efedrina ha esistito, come dicono loro. Va benissimo, ho sbagliato io. Together now. caniglia, accusato di droga, ha ingerito cocaina. Che ah, non se l'è mangiata, ingerito, puro oscuro, tutto da chiarire, caso Caniglia, semmai sarà chiarito. Carlo Paolo, come domani c'è un servizio, c'è la scheda di Carlo Paolo. L'esame antidoping effettuato dopo Roma-Napoli lo scorso 21 marzo rivela un giocatore giallorosso positivo per traccia di cocaina nelle urine. E poi? È stato l'audio. Parlavi che forse è meglio, se l'hai mangiata cucchiaiata o l'ha messa sugli spaghetti a modo di parmigiana? Parla di ingerenza, ecco. Pronto? Che c'è? Che è successo allora? Pronto? Pronto? Tutto bene? Ricorda telefoni bianchi. Bene, non mi pare. Manca l'audio alla scheda di pare, se succede qualche cosa. Guarda che facciamo una cosa drammatica. Chiedere qualche cosa. Caniglia, mica. Caso Caniglia. E Parigi presumo rischia di uscire condannato magari anche se non c'è. Ma poi scusa, ma poi cosa c'entra la cocaina con l'illecito sportivo? Cosa c'è? Infatti, ma cosa c'è? Perché la giustizia sportiva deve entrare in merito a un problema che è un problema di Caniglia? Tutti vi accettano come esempio. Allora, che c'è una cosa che si sa. Piazzaniga, guarda, sta attento con qualcosa. Se c'è una cosa che in Italia funziona, sì? Se c'è una cosa che in Italia funziona, la giustizia ha rilanciato la questione. La giustizia sportiva funziona. E volevo sentire il signor Barbiatti, il quale viene a dire delle cose vergognose nello sport, ma sia nello spettacolo e nel porcino dello spettacolo. Vabbè, lui dove sta? 10 anni che fa televisione. Ma scusa, ma forse se ti vengono a fare un antidoping a te, chissà cosa ti trovano dentro, ma non è che ti cacciano via. Ma cosa posso trovare adesso? Chili e chili di brillantina, ad esempio. Basta, credo. We'll be right back. What advice would you have to offer to Paul Gascoigne, who has been likened to you, you know, to stop him going down the bad end? I don't know. Well, advice, what do you say? Don't drink, don't sleep with women, don't drive fast cars, don't go out after 11 o'clock. But I wouldn't ever dream of telling him that. Because I think he's a very, very good player. How can I give advice to people? Posso buscarlo io? Non sai chi puoi bucare tu? Fammi fare la pelle. Poi prendi di buchi, questo è da provare. No, dottor Paglio, mi siamo proprio a livello di prova. Prima di finale di Coppa UEFA, come eravamo ridotti. Come eravamo ridotti. Ho 25 anni, mi stanno ammazzando. Questa è la finale di Coppa UEFA. Guardate il braccio che si sta gonfiando. Se stai gonfiando, butta dentro, guarda, dottor. Che questa mi ha vendo, sai quanto becco è questa cosa. Vediamo la faccia del dottore, l'espressione del dottore. La vedi a io se sbaglia bene. No, bello. Dai, dottore. È disinfettata la data? No. Sì, che bello. Sì, ancora. Ma fra, dimmi il nonino, fra. Ancora. Thank you. Ma lei quando parla di bordello, puttane, che serve? Ma a quale foto fa riferimento? Mi faccia capire. Le faccio riferimento a questa fotografia, sì? Dove c'è Adriano che si è addormentato sul tavolo completamente ubriaco, e questa puttana di fotografo il cazzo che è in tiro in questo caso. Senta, lei lo sa dire pene o sa dire solo... Mi chiedo scusa. Quindi questa praticamente è l'idea che si era fatta. Ma no, l'idea che si farebbe chiunque, se lei non era fa, se lei non se la fa vuol dire qualcosa. Però mi sembra una foto normale di un calciatore di Serie A, ho capito, ma io le dico, ma le sembra una foto normale? C'è un calciatore di Serie A sdraiato su un tavolo con una delle fotografie pene? Squilla più, il tuo ragazzo ha preso il volo. Buona domenica, tanto tua madre lo capisce, continua a dirti ma non esci mai, perché non provi a divertirti. Buona domenica, quando misuri la tua stanza, finestra letto e la tua radio che continua a dirti che è domenica. Ciao, ciao domenica, passata a piangere sui libri, tanto lo sai che non ti interroga, e poi è domani che ti frega. Ciao, ciao, buona domenica, davanti alla televisione, con quegli idioti che ti guardano e che continuano a giocare. Ciao, ciao domenica, e tua sorella parla, parla, con quello sguardo da imbecille, poi apre la porta alla domenica. Sola, 20 minuti su una pagina, e proprio non ti puoi soffrire. Ciao, ciao domenica, passata ad ascoltare dischi, meno ti cerchi e più ci stai a pensare, e questo tu lo chiami amore. Ciao, ciao domenica, il tuo ragazzo non ti chiama, tristezza nera nello stomaco e in testa voglia di morire, ma non morire di domenica, in questo giorno da bucare, tutto va bene, guarda pure il sole, aspetta ancora una domenica.